Ok, se ci siamo, possiamo iniziare. Questo pezzo parla di una sensazione, di un sentimento che spesso ritroviamo nella nostra città, nei bar, nelle discoteche, nelle vetrine, ma che spesso non ci appartiene. Necessary. Sogni di morte. We'll be right back.

per me è la tanda, quello che non si chiama la notte di fretta, che non mi interessa se la notte di fretta, solo marginale, solo merce, solo catrame, solo merce, solo sporco catrame. Questo purtroppo è già l'ultimo pezzo. Magari lo rifacciamo se la mia voce c'è. Questo è l'ultimo pezzo. Porco Dio, è una cover dei Bad Boys. Molti di voi la conosceranno. Si chiama Pace non vuol dire solo niente guerra. Guardo proprio a te. Quella uniformi e te voglio e mi ideale. Sogni di morte, fra, vai, fai sogni di morte. Non può. Cola! Cola! c'è.